Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che vi tiene compagnia dal lontano 2012 e cerca di ispirare a vivere, pensare e agire senza crudeltà. In questa puntata saremo da bosco e da riviera, ma soprattutto parleremo di un animale notturno, nero e anche supereroe. Provate a indovinare. Venerdì 21 giugno è stata la giornata mondiale della giraffa. Il WWF rende noto che in un recente studio, analizzando le caratteristiche genetiche di quelle che si ritenevano sottospecie, riconosce invece l'esistenza di 4 specie diverse di giraffe nel continente africano. La giraffa settentrionale, quella Masai, la giraffa meridionale e la giraffa reticolata. Nonostante a livello scientifico non ci sia ancora un accordo sulla definizione di queste specie, esiste un dato reale e purtroppo indiscutibile dal punto di vista dello stato di conservazione. 3 sottospecie di giraffa rischiano di sparire per sempre e quindi anche questi maestosi animali stanno vivendo una silenziosa estinzione. Attualmente si stima che siano circa 68.000 le giraffe rimaste libere in natura. La minaccia principale per questa specie è la perdita dell'habitat, provocata in parte dall'aumento della popolazione umana in determinate zone dell'Africa, ma anche gli effetti dei cambiamenti climatici, che esercitano una minaccia significativa. Ulteriori pressioni sulla popolazione di giraffe vengono dalle numerose guerre civili e dal bracconaggio sempre più praticato per la carne della giraffa, purtroppo molto apprezzata e richiesta. Il servizio della settimana è a cura della nostra Batgirl Camilla Lattanzi, che alla guida della sua Batmobile ecosostenibile ci racconta dei salvataggi di pipistrelli. Vogliamo a sentire quanto ha da dirci. Vi proponiamo un audio racconto che potremmo intitolare La giornata di una volontaria animalista. Ed è una storia vera. Qualche giorno fa ho fatto un servizio come staffetta da Firenze, che è la mia città, fino a Roma, per accompagnare presso un centro di recupero molto specializzato 7 pipistrelli che dopo una lunga permanenza in cattività in un piccolo centro di recupero non sembravano ancora abbastanza in forma per poter essere liberati. Sono partita la mattina molto presto da Firenze, direzione Siena, per poi incontrare un'altra volontaria, Federica, e proseguire con la sua auto fino a destinazione. Avevamo un appuntamento presso il centro della Lipu, al Bioparco di Roma, nel quartiere Parioli. Avendo messo la sveglia molto presto al mattino, Appena arrivata in stazione, mi sono concessa una ricca colazione. Prego! C'è la signora? Sì. Ce l'ha un cornetto vegano? Ce l'ho vuoto, con la marmellata al mirtillo e marmellata d'arancia. Allora io con la marmellata d'arancia, perfetto. Grazie. Grazie. A stomaco pieno si ragiona meglio e si riesce anche a individuare il treno giusto. La prima classe è in coda al treno. Su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Questo è il treno per Siena? Sì. Grazie, mi scusi. Il treno da Firenze a Siena passa per Poggibonsi, dove qualcuno mi sta aspettando sul binario per allungarmi i 7 pipistrellini debitamente inscatolati. Ciao caro. Da parte? Ciao. Oh. Tia, carissima. Quanti ce ne sono? Sono 6 più 1. 6 più 1? Sì, sei al Bolimbati di Unzavi, credo. Poi se non è vero. 7 quindi. Vabbè. Dai, ti lascio. Ti faccio Dai, sapere. Ciao Andrea. Il sovrapprezzo del biglietto per cani c'è, ma quello per pipistrelli ancora Trenitalia non l'ha istituito. Riparto per Siena, dove scendo dal treno e cerco Federica che mi sta aspettando per partire. Quindi sulla sinistra uscendo, vero? Che macchina hai? Ok, arrivo, eccomi. Ciao bella. Ecco i tuoi pipini. Amorini, no, piccolini. Dalla foto sembrava la scatola enorme. Invece è minuscola. Guarda dove si mette. Forse dietro. Ce l'hai qualcosa per bloccarle? Ci mettiamo le nostre borse a contrasto. Con piacere, guarda, portarle via, perché anche Andrea diceva, lui non sapeva come fare, diceva, e mi muoiano poi e star qui, cioè come fai, povere bestie, a tenerle in una stanza? No, un po'. Facciamo una breve pausa all'area di servizio Fabro. Anche Federica vuol fare colazione e a me non dispiace fare il bis. Se faceva il menù aveva tutto completo, ora basta che aggiunge la spremuta. Un cappuccino me lo fa con la soia, okay. Invece uno normale. Integrale miele va bene, grazie. Al bar della stazione di servizio attirano alla nostra attenzione due signore con 4 minuscoli cani. Ci dicono che sono appena rientrate da un raduno di maltesi. Sì, avete capito bene, un raduno di proprietari di cani maltesi. Se hai un meticcio, non ci puoi andare. Un raduno con tutti gli altri maltesi. Un raduno di maltesi? Sì, sì. Non ci posso credere. Sì. Ci colpiscono i bustini rosa e fucsia indossati da questi cani. Sembrano quasi dei piccoli tutù. Scopriamo però che in realtà sono delle pettorine e hanno uno scopo ben preciso. Sì, perché almeno non annoda il pelo che è fatto apposta. Dito proprio da una signora che li cuce. Sì. Ah, quindi fatte a mano da un vostro contatto. Muoversi a Roma non è banale e per trovare il centro della Lipu ci mettiamo un bel po'. Te lo dico subito, aspetta che vado nel navigatore e ti dico dove sono. Allora, Panama. Via Panama, sei vicinissima, ok. Sì, siamo Federica e Camilla. Siamo quelle dei pipistrelli. Questi cosa sono? Dei giovani gabbiani? Questi sono gabbiani. Dei giovanottini. Ciao, buongiorno. Quando arriviamo, incontriamo Alessandra Tomassini, che di mestiere fa l'insegnante, ma che è famosa soprattutto come super esperta di pipistrelli. Alessandra è la fondatrice dell'associazione Onlus Tutela Pipistrelli. Se si vede un pipistrello sempre, c'è un problema. Non c'è un problema se l'ho fatto cadere dal rifugio, stavo tirato giù la zanzariera e è caduto. Allora se non gli hai rotto niente, non c'è un problema. Non c'è un problema se ho spostato un quadro fuori e l'ho trovato là dietro. Lo trovo dietro al muro, dietro alla cosa. Ma se io trovo un pipistrello che sia visibile a me, significa che c'è un problema. Fine, sì, è matematico questo. Vediamo che cos'è. Trovo un pipistrello appena nato sul muro? Beh, allora forse si può rimettere solo in colonia, è sano, sta bene, faccio il recupero della mamma. Quello significa un animale che stava bene, però sei intervenuto. Non lasci l'animale e aspetti che cosa succede la sera, perché la sera quell'animale non lo trovi più. Se io vedo un animale che sta così, devo intervenire, perché lo vedo io come qualsiasi predatore, che sia una cornacchia, un gufo reale o un gatto. Interrompiamo una lezione che Alessandra sta tenendo ai volontari della LIPU. Scopriamo così che i 7 pipistrellini che abbiamo portato a Roma hanno una patologia particolare e che probabilmente riusciranno a recuperare e a rimettersi a volare. Scopriamo anche che i pipistrelli hanno una vita sessuale molto intensa e attiva. Chi l'avrebbe mai detto? Questi qui sono gli animali che un centro recupero a Siena hanno recuperato, è un anno che stanno in stanza del volo e non volano adeguatamente, perché per liberare Andrea è un'altra persona che io considero seria e non libera animali che vede che non volano adeguatamente, no? Allora, chi ci abbiamo qua? La femminuccia, lei è un albolimbato. Allora, lei ha come difetto questo? È la punta delle ali delle falangi del terzo dito che sono rivolte verso l'alto. Ha meno portanza. Cioè, lei è un animale sano, è cresciuta bene, le ali sono praticamente perfette, non si vede niente che non va. Ma tu, scusa, avevi visto che il pipistrello di prima era femmina? Sì, mi sembra proprio di sì. Da cosa lo vedi? Non ha il pene. Perché il pene si vede bene, perché noi non abbiamo mai visto un pene di pipistrello. Allora, a parte il fatto che ci sta internet là, perché vi dovrei far vedere la Batfellazio, ci hanno fatto una ricerca scientifica, una pubblicazione rigorosissima sulla Batfellazio durante la copula. Sì, lei è una femmina, decisamente non si vede assolutamente nulla. Sì. Salutiamo i nostri 7 piccoli amici pipistrelli, li lasciamo nelle ottime mani di Alessandra, sicuramente il posto migliore in cui potessero capitare. Andiamo a cercare qualcosa da mangiare e poi torniamo a casa, molto stanche, ma soddisfatte. Per chi volesse saperne di più, www.tutelapipistrelli.it. Come into these arms again and lay your body down. The rhythm of this trembling heart is beating. Thank you. Vampiri, pipistrelli e supereroi sono il tema della ricetta del nostro Tosca Ben Chef, Gabriele Palloni. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Da Dracula a Nosferatu a Batman, il mondo della letteratura, del cinema e dei fumetti ha sempre avvicinato il pipistrello ad immagini gotiche, eleggendolo principe della notte. E avvolto da questa atmosfera dark nasce la ricetta che vi propongo oggi. Black cookies con salsa di fragole. Gli ingredienti per 4 persone sono, per i biscotti, un cucchiaio di lecitina di soia, 25 ml di latte di soia, 50 ml di olio di semi di girasole, 150 g di farina, 25 g di farina di riso, 4 g di carbone vegetale, 30 ml di acqua, 50 g di zucchero di canna, della vaniglia e un pizzico di sale. Per la salsa, 200 g di fragole fresche, 50 g di zucchero di canna e 10 g di amido di mais. Lasciate sciogliere la lecitina nel latte di soia per una decina di minuti. Unite l'olio di semi ed emulsionate il tutto con un frullatore di immersione. Unite tutti gli ingredienti per realizzare i biscotti e mescolate velocemente con le mani o con una planetaria. L'importante è non lavorare troppo l'impasto perché sia friabile e non diventi gommoso. Avvolgete l'impasto così ottenuto con della pellicola e fatelo riposare almeno 30 minuti in frigorifero. Una volta trascorso il tempo necessario, stendete la pasta col mattarello ad uno spessore di circa un centimetro e con uno stampo rotondo ottenete dei biscotti. Adagiateli su una teglia con carta forno e fate cuocere per 20 minuti a 180 gradi a forno ventilato. Togliete dal forno e lasciate raffreddare. Nel frattempo, frullate le fragole e filtrate il succo con un colino. Unite lo zucchero e l'amido di mais, quindi portate ad ebollizione mescolando. Una volta addensato, togliete dal fuoco e accompagnate con i biscotti. Every day brings change and the world puts on a new face. Certain things rearrange and this whole world seems alive. Secretly I've been telling you, like a fox that preys on a rabbit. I had to get you and saw you. I have to run your ways and habits. Ooh, you were the catch that I was after. But I looked up and I was by the game. Molta musica della puntata ispirata al mito del pipistrello. Continuiamo con una colonna sonora uscita nel giugno del 1989, è stata scritta e cantata da Prince. Avete capito che parliamo di Batman, il film diretto da Tim Burton. Da questa colonna sonora ascoltiamo Lemon Crush. Takes Arriva l'estate e si intensifica il problema dell'abbandono degli animali domestici e del randagismo. Pare che il randagismo nel nord Italia sia in flessione rispetto alle rilevazioni di 10 anni fa, ma rimane una questione seria al sud e nelle isole. La Lega Antivivisezione e l'Ente Nazionale Protezione Animali concordano nel constatare che siamo ancora ben lontani dall'avere tutti i dati di cui si avrebbe bisogno per affrontare la questione nel dettaglio. Ma quanti sono i cani randagi in Italia? Si stimano tra i 500 e 700 mila cani randagi. Le cause sono date da due ragioni: abbandono e nascita da animali in libertà. La gestione dell'animale randagio recuperato è regolata dalla legge 281 del 91, una norma che secondo l'ENPA è tra le più avanzate al mondo nella tutela dell'animale. Innanzitutto, la norma proibisce l'abbattimento del randagio se non per eutanasia in presenza di malattie incurabili o di grave e comprovata pericolosità. Inoltre, la legge pianifica una rete di assistenza che fa capo ai comuni e alla polizia municipale. Se hanno la fortuna di sopravvivere allo smarrimento o peggio ancora all'abbandono, i cani trovati sono portati in un canile sanitario. I cani, semplicemente persi e dotati di tatuaggio o microchip, possono tornare ai padroni, mentre quelli non riconosciuti e quelli abbandonati, una volta curati, vengono portati al canile rifugio. I più fortunati saranno adottati da nuove famiglie, gli altri purtroppo rimarranno in canile. Abbandoni e randagismo si possono limitare con una serie di iniziative. Una delle più rilevanti è l'iscrizione negli anagrafi degli animali d'affezione. Il dato più aggiornato fornito dal Ministero della Salute parla di circa 12 milioni di animali registrati. 11 milioni sono cani, 500 mila sono gatti, 1600 di furetti. L'iscrizione degli animali nell'anagrafe è obbligatoria per legge ed è il primo passo per proteggere gli animali dall'abbandono, oltre a essere fondamentale in caso di smarrimento, scrive la LAT. Una diffusione di microchip anche fra i felini sarebbe determinante per favorire i recuperi e porre un disincentivo agli abbandoni. Are you there? Parliamo ancora di cani. Arriva l'estate e con essa le mancabili diatribe legate all'accesso dei cani nelle spiagge. L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente dichiara che la questione resta molto dibattuta e sono molteplici e spesso in contrasto tra loro le norme regionali in campo. Da questa associazione, in aiuto agli animali a quattro zampe e ai loro proprietari, arriva un manuale di diritti e doveri dei cani e dei padroni in spiaggia. Ecco alcuni punti. I cani accompagnati dal padrone non possono essere cacciati da una spiaggia pubblica o dalla battigia in assenza di divieti chiaramente esposti e pubblicizzati regolarmente. Solo le forze dell'ordine, in particolare la capitaneria di porto e i vigili urbani, possono rivolgersi ai proprietari di un cane invitandolo ad allontanarsi, ma non prima di aver informato della presenza dell'ordinanza di divieto. Non basta la comunicazione verbale. I vigili, precisa l'associazione, devono mostrarla e indicare chiaramente il numero di ordinanza e la scadenza, in quanto molte ordinanze contengono divieti solo parziali, limitazioni orarie o riferite a singoli giorni della settimana. Il rifiuto di mostrare le ordinanze è passibile del reato di omissione di atti d'ufficio. In caso di multa deve essere indicato sul verbale le motivazioni che vi hanno indotto a rimanere in spiaggia: mancanza di cartelli di divieto, di indicazioni del numero di ordinanza e date di divieto dietro i cartelli, interventi poco corretti di chi è preposto al controllo della spiaggia o altro. Se manca la chiarezza, la multa può essere impugnata davanti a un giudice di pace. Il proprietario del cane ha il dovere di tenere l'animale al guinzaglio, raccogliere obbligatoriamente le deiezioni, oltre ad evitare di liberare il cane in presenza di bambini o di altri soggetti a rischio o di altri cani. Da evitare anche l'esposizione prolungata dell'animale al sole per evitare i rischi alla sua salute. E siamo in chiusura. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Tutta la nostra redazione, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarò, Zenone Sovilla, Camilla Lattanzi e Giuseppe Coco, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con Restiamo Animali tra una settimana esatta, a meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.